Birkot HaShachar, regole che riguardano le berachot, le benedizioni della mattina. Allora, innanzitutto, l'Alachà insegna che prima di dire le berachot della mattina bisogna lavarsi la bocca. C'è ancora? Lavarsi la bocca. Rechitzata pe, il lavaggio della bocca, lifnei Birkot HaShachar, prima delle benedizioni della mattina. Lifnei shemevarech et birkot ha-shachar, prima appunto di dire queste berachot, alav lirchotz et piv techila, che sono le prime berachot che noi diciamo la mattina, va prima appunto sciacquata la bocca, perché lifnei haririm shebetocho, per appunto quando uno si sveglia si deve sciacquare la bocca, kedei levarech et Hashem Agadol, per benedire a Kadosh Baruch Hu biktusha ubetara, in un contesto anche del corpo di pulizia e di purezza, di Kedushah. Ve Yisaer, l'Alachà ci invita a fare attenzione a non benedire le benedizioni prima di questo lavaggio. Se lo levarech lifnei arechitza. Però c'è una eccezione a questa regola, e l'eccezione è i giorni di digiuno. Le maet betanit Zibur, Shen Rochazim et Ape. Durante i giorni di digiuno non si lava la bocca, perché non si mette l'acqua nella bocca nei giorni di digiuno. Allora, se è Kippur, Tisha B'Av, eccetera, questa regola è sospesa per quel giorno. Ok? Inoltre, quando noi recitiamo una Berachà, l'Alachà ci insegna che c'è da tenere in mente qualcosa di specifico legato a quello che stiamo dicendo nella Berachà. Vediamo cosa dice il testo. Tzarich lechaven, bisogna tenere in mente, et pirush, il significato, hamilim, delle parole, shemotzi bepiv, che gli escono dalla bocca. Allora, ukeshemazkir et Hashem, quando fa riferimento al nome di Hashem, kevan sheshem Hashem anichtav ushem havaya korim oto beshem adne, cioè il nome di Hashem si scrive come il tetragramma, cioè yod kei vav kei, così come è scritto sul sefer eccetera, però non lo si legge così, si legge adne con la vocalizzazione giusta, ovviamente ado eccetera. E che questi due nomi sono entrambi nomi di Hashem, ma hanno un significato diverso. Perché il nome Havaya, il tetragramma, indica HaKadosh Baruch Hu come creatore e come esistenza che è sempre stata, è presente e sempre sarà. Passato, presente e futuro insieme. Questo è il senso del nome Havaya. Invece il senso del nome Adne, Adokai, cosa è? Che lui è padrone di tutto. Adon, Adon vuol dire signore, padrone. Ok? È il signore di tutto. Allora il senso è diverso. Quando noi recitiamo una Berachà, che appunto pronunciamo in un modo, ma la scrittura in realtà è in un altro modo, bisogna avere in mente entrambe il senso di entrambi i nomi. Cioè che noi facciamo una berachà a chi? Ad HaKadosh Baruch Hu, rappresentato in entrambi questi sensi qua. Yesh lechaven, quindi il testo ci dice, bisogna tenere in mente gam et mashma'ut keriato shehu adon hakol, sia il significato mashma'ut keriato della sua, del modo in cui si pronuncia, si legge, cioè Adokai, shehu, che egli è Adon Hakol, il signore di tutto, vegam et mashmaut ketivato, e anche il senso di quanto la maniera della sua la maniera scritta, shehu haya hove veyie, che lui era, è e sarà, cioè il senso semplice del nome Havaya. Quando leggiamo in alcuni posti in Berachot che si scrive anche Adokai, e non solo si pronuncia, ma è anche scritto così, allora il senso è solo quello del Adon, del Signore, padrone di tutto. Lì non bisogna tenere in mente entrambe le cose. Bemakom shegam ketivato hibeshem adne, quando anche la scrittura è con il nome come si pronuncia, allora yesh lechaven rak shehu adonakol. Lì il significato è solamente quello, perché sia scritto che pronunciato nella stessa maniera, allora si tiene in mente solo l'idea che lui è padrone di tutto. Allora, giriamo la pagina. Makom shekore et Elohim. Quando invece c'è il riferimento a un terzo nome di Hashem, in generale sono sette nomi di Hashem. Un terzo nome di Hashem sarebbe Elohim. Il nome Elohim, che lo ricordiamo quasi in ogni Berakha, perché diciamo Baruch Atah Hashem Elokeinu. Nostro Elohim. Cos'è Elokeinu? Nostro Elohim, nostro Dio. Allora, quando si recita il nome Elohim, Yehaven, bisogna tenere in mente, il significato di Elohim è una rappresentanza della forza e del rigore e del giudizio divino. Midat Haddin, bravo. Yehaven shehu takif ve'amitz. Bisogna tenere in mente la forza, coraggio, diciamo, però inteso come un altro senso di forza, nel senso che lui ha il potere assoluto nei mondi superiori e nei mondi inferiori. Questo è il senso del nome Elohim, ed è anche per questo che la parola Elohim diventa anche, può essere anche utilizzata, e spesso lo è, per indicare un giudice o dei giudici che agiscono nel giudizio, perché questo è il senso del nome Elohim. E quindi il nome tetragramma, Yud Kei Vav Kei, che diciamo possiamo dire Havaya, prendendo le stesse lettere e cambiando l'ordine, il nome Havaya rappresenta HaKadosh Baruch Hu come era, è e sarà, cioè l'infinità esistenziale di HaKadosh Baruch Hu. L'eternità. Esatto. E questo è il punto che bisogna tenere in mente quando noi vediamo scritto questo nome, anche se non lo pronunciamo così. Lo pronunciamo Adne, Adokai, che non lo diciamo perché quando non si sta dicendo una berakha o un versetto di Teilim o della Torah non si dice il nome di Hashem. E questo bisogna fare attenzione che nel gergo giudaico-romanesco spesso si dice Bado, che la gente neanche sa tanti cosa stanno dicendo. In realtà quello è un linguaggio di giuramento a nome di Dio. E bisogna assolutamente evitare questo termine. Anche nelle generazioni precedenti, i rabbini di Roma cercavano di sensibilizzare la popolazione di non è che se lo dicevano i nonni vuol dire che si può dire, perché anche i rabbini dei nonni dicevano non lo dicete. Non bisogna dirlo. Il nome di Hashem, e soprattutto è un giuramento a nome di Hashem, ancora peggio, diciamo. E quindi quando si recita quel nome vuol dire Signore, padrone del mondo, di tutto. Ok? E il terzo nome di cui abbiamo parlato è Elohim. Quando si dice Elokeinu, diciamo Baruch Atah Hashem Elokeinu. Cosa vuol dire Elokeinu? Colui che agisce secondo la sua volontà, ha il potere assoluto. Parliamo del suo potere, del suo giudizio e del suo potere assoluto nei mondi superiori e inferiori. Questo è una, questa cosa è valida per ogni volta che si dice una berakha. Sempre Baruch Atah. Sempre quella formula, quindi sempre da tenere in mente questa cosa. Sempre le due. E l'okeino, bravo. Tutti e due. Tutti e due. Poi procediamo, Birkat Asher Yatzar. Arriviamo alla Berakha di Asher Yatzar. Abbiamo già visto la scorsa volta, se non erro, che Asher Yatzar è la Berakha nella quale si fa riferimento e si ringrazia a Kadosh Baruch Hu per il funzionamento sano e liscio del corpo, ed è una Berakha che si recita la mattina nelle Berakhot della mattina, ma anche ogni volta che si esce dal bagno dopo aver fatto i propri bisogni. Però la mattina questa berakha si dice comunque anche se uno non ha fatto i propri bisogni. Mevarchim Asher Yatzar Baboker, si recita la benedizione di Asher Yatzar la mattina nel Birkot HaShachar, così come è nel libro della Tefilah, Gamim lo asatzrachava, anche se non ha fatto i bisogni. Ela, anche se, Shemina Nachon, sarebbe corretto e giusto, la sotzrachav baboker bekumo mishnato. Sarebbe giusto di fare i propri bisogni la mattina quando si sveglia, e solo dopo fare Netilat Yadayim e dire Asher Yatzar. Ovviamente sarebbe più giusto così per ovvi motivi, però anche se uno si trova a non farlo, comunque la berachà si dice. Uleachar miken litolit yadav, e dopo farsi la netilat yadayim. Uleachar miken levarech al netilat yadayim, e poi dire la berachà di al netilat yadayim. E asher yatzar, come abbiamo spiegato nell'altro capitolo che abbiamo fatto l'altra volta. Sì, dica. Berachot Ashakar. Uh-huh. Abbiamo detto che bisogna lavarsi la bocca, ma si possono fare anche se non si è vestiti, allora, perché non è specificato. Non è come la defilà, bisogna essere vestiti. No, bisogna essere vestiti. Bisogna essere vestiti. In pigiama, per esempio. No, in pigiama uno è vestito, nel senso è coperto. No, perché defilà bisogna cambiare. È vero. Per defilà è più rigorosa la cosa. Del Birkot HaShachar coperti, non altro caso vestiti. Esatto. Sì. Ovviamente parliamo di uno che non sta facendo Birkot HaShachar con talit e tefilin addosso. Come al tempio che si mette, certo, talit e tefilin e poi si fa Birkot HaShachar. Certo. Nell'usanza romana e anche di altre usanze. Non tutti hanno questa usanza. In alcune usanze si fanno le Birkot HaShachar solo a casa. Al tempio non si inizia dal Birkot HaShachar. Ci sono due usanze su questo. Ok? Bene. Ora, nella berakha Elokai Neshama, che noi a Roma iniziamo le Birkot HaShachar con questa bracha, Elokai Neshama Shenatata Bite Ora, vero? Sì. Allora, se vediamo il significato di questa bracha, grazie, Neshama Shenatata Bite Ora, l'anima che tu hai infuso in me è pura, Te Ora, Ata Berata, tu l'hai creata, Ata Nefachta Bi, tu l'hai soffiata in me, ve'ata meshamera bekirbi, e tu la conservi dentro di me. Ve'ata atid litelami meni, e tu un giorno me la toglierai, ve'ata atid la hazira bi le'atid lavo, e me la renderai nella vita futura. Poi, kol ze mancha neshama bekirbi, fino a che quest'anima rimarrà dentro di me, modeani lefanecha, io ti renderò omaggio, Shem Elokai Velokei Avotai, Dio mio, Dio dei miei padri, e si conclude Baruch Atah Hashem Amachazir Neshamot Livkremitim, che puoi rendere le anime ai corpi morti. Ora, quando noi diciamo Teora, grazie, Teora pura, questo va ad indicare un livello estremamente elevato di legame con HaKadosh Baruch Hu, dal quale deriva la Neshama. Poi la Neshama passa attraverso questo percorso che la fa arrivare fino al corpo umano, al mondo materiale. A livello mistico c'è scritto che a volte ci sono delle Neshamot che fanno come un salto. Invece di fare tutto il percorso dove diventano sempre più lontani dalla fonte, finché arrivano al mondo materiale, saltano dal mondo di Azilut, cioè il primo mondo della spiritualità, fino a questo mondo direttamente. Queste sono le Neshamot e i Tzadikim, che in un certo senso già da sempre sentono quel profondo e vicino legame con HaKadosh Baruch Hu. Allora, riportano qui una storia di uno dei grandi maestri, l'autore del Tanya, l'Alter Rebbe, quando suo figlio era diventato un po' grande, era ancora adolescente, ma era già un grande di Torah, gli diede il compito di educare nella Hasidut i giovani Hasidim. Aiutarli ad acquistare dei buoni tratti caratteriali, nello studio, nel cammino, nel modo giusto, eccetera. In uno di questi incontri, lezioni, diciamo, il giovane Rav parlò a questi giovani Hasidim chiedendo loro di delle cose che forse sembravano loro essere troppo elevate, al di là del loro livello. Lui stava a un grande livello, allora lui anche cercava di, diciamo, chiedere da queste persone che lo seguivano, a loro sembrava troppo, di livello troppo alto spiritualmente. Allora uno di questi giovani Hasidim ha detto: aspetti un attimo, lei sta chiedendo da noi qualcosa che forse è al di là delle nostre possibilità, perché dice: guarda, aspetta un secondo, facciamo un attimino un piccolo pensiero. Chi sono io, dice questo giovane, e chi sei tu? Io faccio un semplice lavoro, era uno che girava, come si chiama? Un rappresentante. Un ambulante, era un ambulante. Ce l'abbiamo uno qua. Ce l'abbiamo tanti, grazie a Dio. E dove giravano gli ambulanti? Non per strada, giravano dalle case dei nobili. Questo nobile, da quel nobile. I nobili stessi non si degnavano di parlare con gli ambulanti. Erano le signore dei nobili che andavano a vedere se c'era qualche bottone, qualcosa da acquistare, eccetera. Allora, dove mi trovo? Con tutte le signore dei nobili. Questo è il contesto in cui lavoro. E devo cercare di convincerli, di fare un po' di amicizia, in modo tale che acquistano qualcosa, eccetera, eccetera. Dalla mattina alla sera sto girando in queste case. E solo dopo riesco a arrivare a casa, a fare mincha, arvit. Se questa è la mia preparazione per la tefilà, puoi immaginare che alto livello di tefilà può essere. Se questa è la condizione di vita in cui mi trovo. E dice: invece tu, dice al giovane maestro, tu prima che sei nato, il tuo padre, l'Alter Rebbe, il grande tzaddik, ha fatto un giro nel mondo delle anime e ha scelto una neshama per suo figlio, una neshama particolare. Lui capisce le neshamote, dice. E ti ha fatto arrivare in questo mondo in un contesto di kedushah, di santità, di purezza, eccetera, eccetera. E da allora, da quel momento, continua a darti kedushah, insegnamento, Torah. E come fai a chiedere da noi quello che tu chiedi da te stesso? E non c'è paragone. Allora lui ha preso molto molto a cuore queste parole, è andato da suo padre ed era completamente con il cuore spezzato, perché ha realizzato dentro di sé, come dire, tutti i livelli ai quali sono arrivato è come se mi fossero stati donati gratuitamente, non è che necessariamente io ho proprio faticato per crescere, per spezzare me stesso, per diventare migliore, quasi come dire sono nato così e forse non ho fatto niente ancora quello che dovevo fare nella vita. Ed era completamente in un sentimento, completamente col cuore spezzato, un sentimento profondo proprio di Teshuvah, il giovane maestro, no? Il figlio. È venuto da suo padre come un Hasid che va da un Rebbe per chiedergli di aiutarlo spiritualmente. E dopo un periodo che quel giovane che aveva detto questo discorso a quel maestro, era venuto lui dall'Alterebbe, l'Alterebbe l'ha ringraziato. Ha detto: tu hai fatto mio figlio diventare un Hasid. Perché il Hasid è quello che spezza se stesso, non è quello che nasce con quella ricchezza spirituale. No, se ci sei nato non vale niente, non che non vale niente, però lo devi usare per rompere te stesso, per crescere ulteriormente. E quindi, perché questa storia? Perché questa storia descrive un po' che ci possono essere livelli di Nishamot, livelli di anima diversi. Cioè, non livello di anima, livello di contatto che l'anima ha con la fonte, con HaKadosh Baruch Hu, con il divino. Ci sono quindi delle anime, come dicevo, Teorah, rimane sul livello di Teorah, come se tutto ciò che vede in questo mondo non ha effetto negativo sul suo rapporto con HaKadosh Baruch Hu. Invece le anime normali, di noi persone normali, sono anime che passano attraverso Teorah, Beratah, Taitzartah, Tanefach Tabit, tutte queste che sono, rappresentano delle fasi di discesa che rendono sempre più offuscato quel legame, sempre più nascosto. E quando noi ci svegliamo la mattina e diciamo Modé Ani Neshama Shenatata Bi, allora già per com'è la nostra anima è già una grande cosa. In particolare se facciamo attenzione alle parole che stiamo dicendo, approfondiamo e sentiamo il senso, ancora di più. Allora, continuiamo spiegando un po' le prossime berachot della mattina che abbiamo visto. Mashma'ut Birkot HaShachar, 2:3-9. Il senso delle berachot mattutine. Iknu chachamim levarech et Hashem bechol yom. Maestri hanno istituito che bisogna benedire il Signore tutti i giorni ringraziandolo al hahana'ot hashegartiot, ringraziandolo per le semplici e comuni, diciamo, godimenti, letteralmente, cioè ciò di cui godiamo in maniera semplice e normale, magari diamo per scontato questa cosa, invece no, dobbiamo ringraziare Hashem e benedirlo per questa cosa. Le cose delle quali la persona gode durante il corso del giorno, ovviamente non facciamo la berachà 30 volte se sentiamo quella cosa 30 volte al giorno, facciamo una volta la mattina, la prima volta. Per esempio, quando diciamo Baruch Hashem Pokeach Ivrim, che apre gli occhi dei ciechi, cioè prima stavamo dormendo e adesso abbiamo vediamo che possiamo vedere, possiamo usare i nostri occhi, ringraziamo HaKadosh Baruch Hu, non ogni volta che usiamo gli occhi nel giorno, una volta la mattina per tutte quelle volte, giusto? Allora, inoltre, a parte questo senso, c'è anche un'altra cosa che guadagniamo, tra virgolette, facendo queste benedizioni. Questo è che è scritto che ogni giorno bisognerebbe fare 100 berachot, un minimo di 100 volte che diciamo la formula Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, che quella è la formula della berachah, che fa sì che la cosa sia considerata una berachah. C'è scritto che i maestri hanno istituito, dal tempo di David Amelech, che ogni ebreo ogni giorno dica 100 berachot. Se noi facciamo il conto, con la Midah tre volte, con le Birkot HaShachar, con la Birkat HaMazon e qualche Berakha qui e lì, già si rientra facilmente nei 100 Berakhot. È scritto che c'era un... abbiamo anche parlato qualche volta che David HaMelech ha sbagliato facendo il censimento, contando gli ebrei, non si contano le teste, eccetera. C'era qualche conseguenza negativa a questa cosa, una piaga, persone morivano, eccetera. Davide ha capito che doveva fare un rimedio. Il rimedio è stato questo, che ogni giorno, ogni udì deve dire 100 berachot. E si appoggia a questo un versetto che è scritto Ashrei HaGever Hukam Al. Beato la persona che è stato messo sopra, Al, come su un piedistallo. Però Al, la parola Al, si scrive Ain Lamed. Il valore numerico, Ain cos'è? 70, e Lame 30, allora sono 100. Allora, beata la persona, questo in senso midrashico, che ha istituito i 100, le 100 berachot. Un'altra allusione a questa cosa si appoggia ad un versetto della Torah dove è scritto Ve'ata Israel ma Hashem Elokecha Shoel Meimach, che im leira, Mosè dice al popolo ebraico nel libro di Devarim, ed ora Israel, cos'è che il Signore chiede da te se non che aver timore di Hashem? Che im leira et Hashem Elokecha. Lalechet bidrachav, camminare nelle sue vie, lishmor mitzvotav, osservare le sue mitzvot, eccetera. Allora quando dice cosa chiede il Signore da te? Ma Hashem Elokecha, Shoel, richiede Meimach da te. La parola ma si può leggere non come una domanda, ma come un'affermazione. Cosa chiede il Signore da te? Ma. E i maestri dicono al Tikre ma è la mea. Questo ma si legge mea. Mea vuol dire cento. Ok? Allora, cosa chiede il Signore da te? Di fare 100 berachot ogni giorno. Cioè si appoggia anche a questa derasha qui. E le Birkot HaShachar, di cui stiamo parlando adesso, ci aiutano molto ad arrivare a questo numero di 100 brachot al giorno. 100 è 10 per 10, 10 è il numero completo, 10 volte la completezza del 10, a livello mistico ci sono spiegazioni, e quindi ogni giorno si fanno 100 brachot. Un po' lungo, 100 brachot al giorno, 350 mitzvot. Chi ha detto 350 mitzvot? Deve essere, no, dico, le mitzvot, il giorno, le brachot, le brachot, ci abbiamo merito. Se, grazie a Dio, speriamo sempre di più. Allora, mashmaut abrachot, senso delle brachot, che birata noten la sechvi binah, quando noi diciamo noten la sechvi binah le avchin ben yom venayla, vuol dire HaKadosh Baruch Hu dà al gallo l'intelligenza di distinguere tra il giorno e la notte. Pokeach ivrim, abbiamo detto prima, per la vista, poter usare gli occhi, che prima quando dormiamo è come se fossimo ciechi. Matira surim. Matira surim letteralmente vuol dire slega i nodi, slega quelli che sono legati, cioè il corpo che si, le ossa, che, no, come si chiama? Sgranchire le ossa. Sgranchire le articolazioni, le ossa. Le giunture. Le giunture, bravo. Zokef kefufim. Rialzare, un uomo piegati. Sta in piedi in forma eretta, Zokef kefufim, Malbish arumim, colui che veste i nudi, cioè che ci vestiamo, abbiamo la possibilità di vestirci, Anoten la Yaef Koach, il rinnovo delle forze, delle energie nel risveglio, Anoten la Yaef Koach vuol dire chi dà forza al a chi è stanco. Rokah Haaretz Alamaim, che a Kadosh Baruch Hu all'inizio della creazione, se vi ricordate, tutto era coperto dalle acque, poi Hashem fa una separazione per la quale le acque rimangono limitate e non coprono tutta la terra, questo ci dà la possibilità di stare sulla terra. Rokah Haaretz Alamaim. Hamechin Mitzadeh Gaver, colui che predispone i passi dell'uomo, cioè ringraziamo per poter anche camminare su questa terra, muoverci sulla terra, e ci assali col zorkai, poi aggiungiamo che mi prepara tutte le mie necessità, esigenze. Questo è un riferimento in realtà a quando ci mettiamo le scarpe. Una persona può essere vestita e può poter camminare e stare in piedi eretto, eccetera, però le scarpe sono essenziali nel muoversi, nel lavorare, nel viaggiare, in qualsiasi cosa. Il fatto di coprirsi, proteggersi il piede è chiaramente importantissimo, anche il tipo di scarpe è importante, però questo è un altro discorso. E quindi quando diciamo tutto ciò che mi serve, vuol dire anche le cose che sembrano essere in più, non assolutamente essenziali per la vita, diciamo così, ringraziamo anche per quelle cose che sembrerebbero che siano in più, ma non lo sono. Sono anche queste delle esigenze. Poi Oser Israel Bigvura, si pronuncia come Shasali Kol Tzerachai, e in altri riti si dice Tzorkai. Comunque, ognuno secondo il suo rito. Invece Oser Israel Bigvura, che cinge Israel di vigore morale, dice qui. Gvura è anche forza, coraggio, in ebraico moderno, eroismo, è riferito cingere, è riferito alla cinta. Però ovviamente fa allusione ad altre cose. Il cingersi è come uno che si prepara per affrontare con forza, con rigore, con coraggio qualche cosa. Oter Israel betifara, e questo invece in corona, atara è una corona, riferito al, con la copertura della testa, il cappello. Betifara vuol dire con bellezza. Su queste berachot è scritto in realtà nelle prime fonti che nel momento in cui si fa quella cosa specifica si dice quella berachah, cioè quando mi metto la cinta dico la berachah della cinta. Quando è? In realtà non credo che esista ancora questa usanza. L'usanza è come facciamo, che si recitano tutte una dopo l'altra. Però in particolare quella che forse solleva più perplessità è quella del gallo, perché effettivamente se senti il gallo fai la berachah, se non senti il gallo perché fai la berachah? Cioè, cingersi, ti cingi, scarpe, te li metti, vabbè, fai la berachah un po' dopo, però comunque sono esperienze che fai. Il gallo è raro che lo senti che ti sveglia la mattina il gallo, magari può capitare qualche volta in un agriturismo e così via, però non è una cosa comune. Allora alcuni maestri spiegano che è chiaro che noi facciamo la berachah anche quando non sentiamo il gallo. Il grande maestro Rabbeinu Asher, che è conosciuto con l'acronimo Rosh, Rabbeinu Asher, uno dei grandi maestri, primi codificatori di Halakha e di commenti al Talmud, suo figlio era Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim, autore del Tur, grande opera di Halakha, e anche autore di un commento alla Torah e altre cose. Lui dice che questa berachà non è in realtà riferita in maniera limitata al canto del gallo, bensì alla intelligenza che anche l'uomo ha per distinguere non solamente tra orari diurni e orari notturni, ma tra il bene e il male. Notte come male, giorno come bene, e la possibilità che HaKadosh Baruch Hu ci dà un certo senso di distinzione, di poter distinguere nella nostra mente un tipo di intelligenza, perché non ogni persona intelligente effettivamente ha sempre la possibilità di distinguere. La possibilità di distinguere richiede un certo tipo di intelligenza. Non è scontato che uno che prende 100 su tutti gli esami abbia questa facoltà, questa sensibilità. È più un tipo di sensibilità di poter distinguere tra situazioni, contesti, eccetera, eccetera, nel senso generale di cui parliamo, tra il bene e il male. Quindi la halakha ci richiede comunque sempre di fare questa berachah anche per chi non ha mai in vita sua sentito il gallo che canta la mattina all'alba. Poi mi viene una riflessione. Il canto del gallo è anche un richiamo, no? Per mia esperienza, poi non sono un esperto di ornitologia, però il gallo in realtà non canta subito dopo quando fa alba. Canta un po' prima, lo introduce. Sì, io spesso ho sentito il gallo che cantava ed era buio, certo. E dopo un po' faceva, quindi è come un richiamo prima del... Lo sente. Ti avverte prima che prima magari va incontro a una... È dovuto al suo ritmo, come si chiama? Biologico. Ritmo biologico, giorno e notte, lui c'è numero di ore, dorme, dopo quella, anche se non è chiaro, lui canta. E già combacia con quella, dopo poco. Il ritmo circa di anni. Benissimo, è vero, ottima riflessione. Proseguiamo un pochino, pagina 243, signori, gentilmente. Mesdames et messieurs, Le'achar miken, verso la fine delle berachot la mattina, noi diciamo Shelo Asani Goi, oppure She Asani Israel nel rito romano, lo stesso senso che mi ha fatto essere ebreo. Shelo Asani Aved, che non mi ha fatto schiavo, lo dice chiunque non è schiavo. Shelo Asani Isha, e che non mi ha fatto donna, lo dice chiunque non è donna. Queste tre berachot perché? Queste tre berachot perché? Sheinam mechuyavim betariag mitzvot. Visto che queste sono persone che non sono obbligate a fare tutte 613 le mitzvot, allora chi invece è obbligato a fare tutte 613 mitzvot, ringrazia a Kadosh Baruch Hu per questa cosa. Liten hoda'a la makom Baruch Hu, shelo sam chelko kameule shebahem, ela zachah la'avod et Hashem liot karov elav yoter mikulam. Si ringrazia Kadosh Baruch Hu per questa cosa. Ovviamente, oggigiorno non sembra molto politically correct dire, recitare queste brachot in questo senso, però il loro senso non vuole essere discriminatorio, vuole essere riconoscente della propria situazione. Ricordo che c'è una lezione molto interessante su questo tema del Rav Rashid, il rabbino Riccardo Di Segni, che potete vedere su internet, dove approfondisce molto il senso di questa berakha, in particolare quella di Shelo Asani Isha, che non mi ha fatto donna, e riporta vari punti di vista e spiegazioni che possono, diciamo, rendere tranquilla anche la mente moderna quando dice questa berakha. Ma la donna non è obbligata a fare queste mitzvot e quelle cose lì? La donna è obbligata? Una donna ha meno obblighi di un uomo. Però tutto quelli le mitzvot. Penso che non. Stiamo parlando delle mitzvot. Sì. Le mitzvot, ogni mitzvah, bisogna vedere chi è obbligata a fare quella mitzvah. Non sono uomini. Per esempio, Shabbat è uguale per uomini e donne. Kiddush è uguale per uomini e donne. Però quelle brachot anche in generale mitzvot che sono legate ad un tempo specifico, ovviamente ci sono eccezioni perché abbiamo appena detto Shabbat e Moed sono legate a un tempo, ma sono eccezioni a questa regola. Ma normalmente mitzvot che sono legate a un tempo specifico, le donne sono esenti da queste mitzvot. Una domanda, io conosco una persona anche timoroso di Hashem, chiaramente non dico il nome, e lui non ha approfondito probabilmente il senso di questa berakha, e lui dice, al posto di questa, pur essendo uomo, che mi ha fatto secondo la sua volontà, il che non apparentemente non potrebbe essere sbagliata, perché chi è che non è stato creato secondo la volontà di HaKadosh Baruch Hu? Il problema è che non si possono inventare nuove berakhot. Beh, però questa già esiste. Va bene. No, vero, hai ragione, già esiste. Quindi che gli ti potrebbe dire? Che non è il senso dell'uomo. Cioè fa un errore, gli posso dire, guarda, tu stai sbagliando. Certo, credo che sia un errore, perché non è la berakha, diciamo, indicata per quella persona. Però è difficile dare una risposta senza magari conoscere la persona, capire come la prenderebbe, cioè ci sono anche altre questioni oltre il senso semplice, diciamo, tecnico della cosa, perché effettivamente hai ragione quando dici che è una berakha che già esiste, il senso è anche corretto, non si può dire che è scorretto, ma diciamo è scorretta l'applicazione in quel caso, no? Specifica quella cosa. Quindi bisognerebbe riflettere. Poi ci sono bisognerebbe più uomini femministi di quanti le donne credono, questo. Vabbè, questo va bene. Scusa. Ma non combacio dicevi con le preghiere. Esatto. Queste tre berachot, essendo riferite a persone per un motivo o per l'altro non tenute a osservare a fare tutte le mitzvot, sì. Comunque sono in apertura perché comunque sono inserite perché ringraziano in ogni modo, sì, sono, pur non essendo tenute. Sono ringraziate. C'è anche una sequenza, c'è cioè una logica, c'è cioè un perché anche nella sequenza di queste berachot, giusto? Sicuramente, anche se nei vari riti tutte, ci sono, solo di queste tre, anche di se, sicuramente sì, anche se nei vari riti ci sono differenze dell'ordine. Perché poi invece ho visto che altri perché ci possono essere vari sensi. Ci possono essere quale è riferito un concetto di sequenza, invece sono inversi. Ci può essere un altro concetto di sequenza. Però quindi possono essere varie sequenze tutte valide a seconda del rito. Alla fine il concetto dipende dalla censura. No, sull'ordine è stato invertito per la censura. Allora, ho sentito questa cosa che l'ordine è invertito per la censura o la berakha? Ah, tu intendi dire che Shasan Israel e non Shasan ce l'ho Shasan Goy. Ok, ma perché l'ordine? Anche l'ordine è invertito. No, ma perché cambia per la censura? Perché dicevano come è meglio essere schiavo che di prigione che essere goi, allora gli hanno fatto mettere sopra, diciamo. Noi l'abbiamo subito. Cioè mettere prima lo schiavo? Sì, noi cominciamo subito con Shasan Yaved. Giusto. E poi dopo diciamo Shasan Israel. Ok. Per dire che è meglio essere non essere ebreo schiavo che comunque non vuoi. Aspetta, non ricordo bene. Però sempre comunque. Ok, no, il concetto generale ho capito. Ho sentito tante volte che il fatto di dire Shasan Israel che mi ha fatto ebreo e non dire Shelo Hasan Goy che non mi ha fatto non ebreo, che è una questione di censura. Però poi ho visto delle fonti secondo le quali un antico rito di Eretz Israel, perché normalmente le nostre la maggior parte del rito e anche dell'usanza si basa su l'alakha che è stata insegnata in Babilonia. Molto dell'alakha o delle usanze dei riti di Eretz Israel sono state perse nel corso dei secoli. E invece si è trovato in qualche fonte che ho visto che nel rito antico del Israele si diceva Shasan Israel, che non era per censura in altre parole. Quindi può darsi che ci sono delle fonti precedenti a questa cosa. Cioè in altre parole il senso è lo stesso e si può dire sia nel positivo che nel negativo, no? Ok. La cronologia non c'entra. A volte c'entra. No, c'entra. L'ordine, dici, delle... Sì. Ma voi poi... C'entra. Allora, concludiamo qui o facciamo altri 5 minuti? Vai. Altri 5 minuti. Ok. Allora. Pagina 245, le berachot della Torah. Brachot della Torah, una serie di brachot della Torah nella brachot della mattina che iniziano con Asher Kideshanu, Bemitzvotav, Tzivanu, Aldivrei Torah, giusto? Ringraziamo a Kadosh Baruch Hu della mitzvah, dello studio della Torah e poi continuiamo con Ve'arevna e Asher Bacharbanu Mikol Amim, Benatalanu e Torato, che sono brachot della Torah. Il testo dice Birchat Torah, la Birchat della Torah, Tzarich Lisa Erba Meod, bisogna fare molta attenzione a dire questa Birchat ogni giorno, fino al punto che i maestri dicono She'aretz Harva Kilo Barchuba Torah Betchila. I maestri dicono il primo tempio è stato distrutto perché c'erano tante trasgressioni, anche molto gravi, omicidio, immoralità sessuale, idolatria, tutte le tre cose più gravi, diciamo, nell'ebraismo. Dice, ma il secondo Bet HaMikdash perché è stato distrutto? E ci sono varie spiegazioni. In una delle spiegazioni i maestri dicono Mishum shelo berchu batorat chila. Dice, sì, studiavano tanta Torah ma senza fare la berakha prima. In altre parole, vuol dire senza riconoscere l'importanza della Torah fino a rispettarla attraverso la berakha. Cioè può darsi pure che la berakha la dicevano, diciamo così. Però il senso della barakà, cioè il rispetto di chi ha dato la Torah, che la Torah non è un regime di studio come un altro, ma è il nostro legame con HaKadosh Baruch Hu, è un documento di origine divina, eccetera, questo si rappresenta soprattutto nel momento in cui sulla Torah si dice una barakà, le berachot della Torah. Quindi Afal Pishe Asku Azarbeba Torah, anche se si occuparono molto della Torah in quel periodo, Hilo Hegena Alehem, è come se la Torah che loro hanno studiato non li ha protetti quando erano in difficoltà, Mishum shelo hayta chashuva benehem v'zilzulu birchata, perché non era abbastanza importante ai loro occhi e quindi rendevano meno importante la berakha, diciamo l'aspetto religioso, per così dire, no? Era più una cosa, da questo punto di vista, più una cosa più intellettuale che un servizio di Hashem attraverso lo studio della Torah. Ok? Per questo, lachen, hashuv, è importante, she adam itiachese la Torah, che l'uomo si rapporti alla Torah, ki kli chemdato shel HaKadosh Baruch Hu, considerando la Torah come un oggetto dell'amore di Hashem. La Torah è soggetta dell'amore di Hashem, è un oggetto che HaKadosh Baruch Hu ama. Shaya mishtashea ba bechol yom, c'è scritto che HaKadosh Baruch Hu, prima che diede la Torah a noi, giocava, gioiva con la Torah ogni giorno. Ed è chashuva be'enav, e sia quindi importante ai suoi occhi, she yehene levarech alea besimcha yoter me'al kol hanot sheba'olam, che possa la persona gioire, godere nel benedire la Torah più di qualsiasi altro godimento del mondo. Vese more, e questo sarà l'indicazione, she osek ba'lishma, che si occupa della Torah per la Torah stessa e non per un secondo fine. Umitoch kach, e occupandosi della Torah in questa maniera, qual è il merito? Yizke, si meriterà, e shalshelet hanimshechet laosek b'Torah lishma, si merita una catena, come detto, abbiamo detto adesso nell'Uva Lezion, lo yamush umipicha, umipizaracha, umipizerazeracha, che le parole della Torah possano non mancare dalla tua bocca, dalla bocca della tua, dei tuoi figli e dalla bocca dei figli dei tuoi figli. Cioè è una triplice beracha, l'occuparsi della Torah, lishma, per il fine della Torah stessa, per HaKadosh Baruch Hu. Kelomar, ovvero che shetaseh she'elato uvakashato shel Hashem, quando esaudisci la richiesta di Hashem, Hashem Bakesher Birkat HaTorah, che lui ti chiede di studiare, ma con la Berakha, cioè con il senso di servire Hashem, Aziku Yambecha, allora si realizzerà in te, Vinia Nachnu Vezezainu, la Berakha che noi diciamo la mattina nelle Birkat HaTorah, Vinia Nachnu Vezezainu, che noi e i nostri discendenti, Vezeza e Zezainu, e i discendenti dei nostri discendenti possano studiare la Torah lishma. In realtà, quando è il momento in cui abbiamo l'obbligo di dire la berakha della Torah? Prima che iniziamo a studiare la Torah. Come un'altra mitzvah, prima di mettere i tefilin, si dice berakha i tefilin, prima di mettere il tallet, si dice berakha il tallet, prima di studiare Torah c'è la berakha della Torah. Allora, in teoria, uno si sveglia la mattina, fa la berakha della mattina, fa la tefilah, e poi quando studierà la Torah, prima di studiare dice la berakha della Torah. Però in pratica non si fa così, chiaramente. La berakha della Torah è relativa a qualsiasi aspetto della Torah, che sia il senso semplice della Torah scritta, o il senso allusivo, il senso derush, di derashot, sod, il senso cabalistico, del segreto della Torah. Perché tutto è stato ricevuto da Moshe sul Sinai. Chi mangia kol nitan le Moshe mi Sinai. Di conseguenza noi facciamo la berakha la mattina e anche subito dopo la berakha della Torah cosa diciamo? Ashrei ha'ish, nel rito romano, no? O in altri riti simili, Ashrei ha'ish asher lo halach b'atzad resha'im, oppure un shalma prima, un shalma parim sefatenu, vai daber Hashem el Moshe lemor, tzaved bnei Israel. Perché diciamo questi brani? Perché sono brani di Torah, non perché sono tefilah. Avendo detto la berakha della Torah, noi recitiamo un pezzo della Torah scritta, un pezzo dei profeti, un pezzo degli agiografi e anche un pezzo di Mishnah, se guardate bene nel libro, quindi Torah orale, tutto di seguito alle berakhot della Torah per subito rientrare nella mitzvah comunque. Poi tutta la Torah che studieremo nel corso della giornata rientra in quelle prime berakhot della Torah che abbiamo fatto la mattina. Anche oggi? Anche assolutamente adesso. Sì. Chi però non pronuncia parole di Torah, ma solo li pensa nel suo pensiero, cioè se uno si sveglia la mattina e inizia a pensare alla lezione che ha studiato il giorno prima, nel pensiero non deve dire la berakha. Quindi non è che deve tenere il pensiero, no, non posso pensare alla Torah, no, puoi sempre pensare alla Torah, anche senza aver detto la berakha. Avala meharher belibo, chi pensa nel suo pensiero, e non mozzi di vrei Torah befiv, e non fa fuoriuscire le parole pronunciandole dalla bocca, anche addirittura filo mozzi mi pi psak din Torah le lotam, anche uno che deve dare un'indicazione, una halakha, qualcuno gli fa una domanda, oppure dentro casa deve dire a un bambino no, devi fare così, non così, ancora non ha detto le brachot della Torah, lo può dire la regola, può indicare qual è la regola, il psak din, cioè la regola specifica, senza però dire il motivo. Se dice il motivo, prima deve dire la brachot della Torah. Però se ancora non ha detto le brachot, può già dire qual è l'alaha, se serve, ancora senza dire le brachot, però senza le motivazioni. Dal momento che vuole dire le motivazioni, non lo può fare senza dire le brachot prima. Ok, quindi il pensiero è se serve la regola netta, tecnica, senza le motivazioni, si possono dire, senza l'obbligo di dire la berachah. Però chiaramente, come dicevamo, ukedei sheloli kashel ba'amirat divrei Torah, in modo da non inciampare, diciamo, nel problema di dire o studiare parole di Torah senza dire la berachah, lelo birachot Torah, birkot Torah tefilah, allora noagim, l'usanza di tutti gli ebrei, è levarech et birkot Torah beveto, di fare le berachot con le berachot della mattina, chi le fa a caso, chi le fa al tempio, comunque con le berachot della mattina, per rientrare subito in questa mitzvah. E noi concludiamo la berachà dicendo noten haTorah, ovvero colui che dà la Torah, per dire non che ci ha dato un giorno la Torah, ma che oggi ci dà la Torah, perché nel momento in cui un ebreo studia Torah, noten hove, presente, perché HaKadosh Baruch Hu ti ridà la Torah in maniera fresca e nuova tutti i giorni, basta accoglierla. Chazak u baruch atu.